24 mattino. 17 minuti dopo le 8 e oggi si dice che in Iraq è tempo di tornare a casa, perché ormai gli americani per i nasi degli iracheni hanno un cattivo odore. Queste sono le parole del colonnello Timothy Rees, usate in un memorandum ufficiale sulla questione irachena. Ne discuteremo anche con la conduttrice di Al Jazeera International Barbara Serra e i nostri ospiti, ma alle 8:30 in punto. Ora soldi e dintorni. Soldi e dintorni. E che si segua questa rubrica tutti i giorni è cosa bella e giusta, ma ieri parlavamo di bagagli che sicuramente si smarriscono se andate in vacanza. Oggi mi sono messa il camice. Oggi devo chiamarti dottoressa Deborah Rosciani e parlerai delle malattie che incontreremo in vacanza. Insomma. No, che non vorrei mai che incontrassimo in vacanza. Sì, no, Irene, però può capitare. Però ti sei concentrata sugli aspetti positivi, sì, è giusto, insomma. Sugli aspetti positivi, sulla precauzione, sulla prevenzione, perché prevenire è sempre meglio che curare. Giustamente Irene ha ricordato che ieri abbiamo parlato della vacanza rovinata nel caso in cui il nostro bagaglio, chissà dove va a finire, si disperda in qualche aeroporto del mondo. Oggi, non volendo naturalmente rubare il lavoro alla nostra Nicoletta Carbone, conduttrice e autrice di Essere e Benessere, la nostra trasmissione dedicata alla nostra salute, appunto in onda tutti i giorni alle ore 11, però è bene ricordare tutte quelle cose che tutelano la nostra salute prima di partire per la vacanza, perché naturalmente vacanza ammalata è una vacanza rovinata, sono soldi persi. E quest'anno più che mai, siccome è stato un anno duro e difficile per l'economia, se siamo riusciti a ricavarci anche qualche settimana di tempo da dedicare ad una bella località di vacanza, perché dobbiamo buttarla solamente perché non abbiamo pensato a delle precauzioni da prendere? Quindi partiamo sereni e soprattutto teniamo bene a mente tutti quegli accorgimenti che dobbiamo prendere, che devono raddoppiare, per esempio se intendiamo raggiungere delle località molto distanti dove non siamo mai andati. E allora il vademecum ce lo facciamo fare questa mattina da chi lo ha già fatto, per una grande associazione dei consumatori. Buongiorno alla dottoressa Silvia Loiacono, Osservatorio Farmaci e Salute del Movimento Difesa del Cittadino. Benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora, dottoressa Loiacono, appunto per il Movimento, ha preparato un dossier, Viaggiare in Salute, lo dicevamo, ricorda tutti i più importanti accorgimenti da prendere prima, durante e magari qualche volta anche dopo la vacanza se ci portiamo dietro qualche strascico. Vorrei subito ricordare, dottoressa, se mi aiuta intanto, se sul sito dell'associazione lo possiamo trovare questo vademecum. Sì, il dossier è completamente scaricabile sul sito dell'associazione Movimento Difesa del Cittadino, è facilmente consultabile, è suddiviso per macro aree geografiche, quindi è molto comodo per coloro che hanno già in mente la propria destinazione di viaggio, per controllare quali malattie sono endemiche in quella zona ed eventualmente se ci sono anche delle ondate epidemiche occasionali in questo momento. La conosciamo bene, peraltro, purtroppo, che sta colpendo peraltro una zona, parlo del Messico, dell'influenza suina, che generalmente è una meta molto raggiunta anche dagli italiani, dottoressa. Sì, assolutamente sì, questa influenza suina ha avuto il suo focolaio proprio in aprile in Messico, ha registrato 60 morti, circa un migliaio di persone contagiate. La caratteristica fondamentale di questa influenza è che ha, per così dire, saltato la specie, per cui a differenza dell'influenza aviaria di qualche anno fa, che era trasmissibile soltanto da animale a animale oppure dall'animale all'uomo, nell'influenza suina c'è una trasmissione da uomo a uomo e questo naturalmente aumenta notevolmente il contagio e quindi molto infettiva, ma anche in questo caso, prima di ricorrere in maniera sconsiderata a dei farmaci, è possibile limitare la diffusione virale attraverso delle misure comportamentali anche banali, che poi sostanzialmente sono quelle applicabili per una normale influenza, quindi ecco, coprire il naso e la bocca, lavare spesso le mani, che sembra una cosa banale ma importantissima, perché anche un gesto semplice come lavarsi le mani risulta spesso una misura efficace verso molte malattie, in questo caso di origine virale. Benissimo, allora prima dell'influenza suina volevo ricordare anche che il vostro dossier, oltre ad essere molto articolato, ha anche una sintesi che è il decalogo Viaggiare in Salute, e io partendo da questi punti li svilupperò appunto con la dottoressa Loiacono questa mattina. Il primo punto da tenere in considerazione è proprio viaggiare informati, a prescindere dal fatto che dobbiamo fare una lista delle cose belle da vedere in relazione alla località dove andiamo, dalla spiaggia ai monumenti, cerchiamo anche di capire se magari nelle aree circostanze ci sono delle circostanti, delle patologie che è bene conoscere, magari se ci sono delle località che si intende raggiungere e per le quali è bene vaccinarsi prima, dottoressa. Sì, esattamente. In alcuni casi sono sufficienti delle misure di profilassi farmacologica, non vere e proprie vaccinazioni. Penso ad esempio al continente africano, in particolare nell'area del Sud Sahara è endemica la malaria. Per la malaria purtroppo non esiste ancora un vaccino, esistono però delle prevenzioni farmacologiche da effettuare prima della vacanza, durante la vacanza e il rientro. È quindi importante adottare per queste misure. Per altri paesi invece sono necessarie vere e proprie vaccinazioni, penso ad esempio alla necessità di un vaccino per l'epatite per alcune zone dell'Asia, l'epatite alimentare, l'epatite di tipo A è molto frequente in queste zone, per cui ecco è necessario informarsi sul luogo di destinazione per evitare eventuali inconvenienti dopo. Ecco, Dottoressa, non la stiamo sentendo bene, se si può un attimino ecco, sistemare con il telefono perché ogni tanto la perdiamo. Sì, è evidentemente una questione di campo. Sì, infatti. Presso i centri di medicina dei viaggi comunque è possibile effettuare queste vaccinazioni e avere tutte le informazioni necessarie al fine di partire con tranquillità, con serenità. Mm-hmm. E questo è lo scopo principale. Certo, quindi allora lasciamo adesso un attimo la vaccinazione. Esistono anche informazioni nel vostro vademecum riguardo all'assistenza sanitaria all'estero. Può essere utile portarci ovunque andiamo la nostra tessera sanitaria italiana, dottoressa? La tessera sanitaria è fondamentale portarla con sé. È molto importante portarla per i paesi europei perché siamo garantiti sia per quanto riguarda le emergenze sanitarie ma anche per assistenze sanitarie banali non specialistiche. La formula di rimborso è totale all'assistito, è necessario pagare solamente la quota del ticket, eventualmente se nel paese è in vigore una quota ticket così come lo è in Italia. Per quanto riguarda i paesi extraeuropei sarebbe bene tutelarsi attraverso una forma di polizza assicurativa, è possibile stipularla presso le normali agenzie di viaggio, stando però piuttosto attenti a eventuali clausole che possono essere inserite all'interno affinché si possa avere una copertura assicurativa buona, insomma, che vengano garantite le prestazioni. E infatti, quindi sì, tra l'altro noi ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa proprio a Salvadanaio, anche lì magari si parte in genere con una polizza standard e scopriamo sul posto, nel caso in cui malauguratamente ne dovessimo aver bisogno, che magari la copertura non è completa, quindi si può fare una chiacchierata molto dettagliata con la compagnia per capire, soprattutto se abbiamo dei bambini piccoli che portiamo con noi, dottoressa Lo Iacono, anche questa insomma la polizza che tuteli tutta la sfera familiare, soprattutto i bambini che sono più soggetti magari. Sì. Esatto, molto spesso infatti il problema è proprio questo, che le polizze si pensa siano estendibili a tutta la famiglia, invece in realtà sono soltanto a carico magari di una persona e questo non è necessario stipulare una polizza di questo tipo. Dottoressa Lo Iacono, io non so lei quale località di vacanza abbia scelto quest'anno, ma quali sono i farmaci che non fa mai mancare nella sua valigia? Allora, sicuramente dei farmaci antipiretici, l'antipiretico è fondamentale da portare con sé. Quindi banalmente il paracetamolo, la tachipirina. Il paracetamolo va benissimo, bisogna anche considerare dei repellenti per le zanzare, che molto spesso sono il vettore di molte malattie e in particolare riguardo alle zanzare si possono usare poi una serie di precauzioni aggiuntive, tra cui spruzzare l'antizanzare anche sul vestiario nelle proprie stanze dove si alloggia per evitare appunto che possono arrivare le zanzare anche nel corso della notte, che tra l'altro in alcuni paesi sono quelle che sono veri killer, le malattie. Esatto. Ci sono poi altri farmaci da portare, sono gli antibiotici a largo spettro, perché potrebbero aversi delle infezioni difficilmente diagnosticabili di quale genere, quindi è importante l'antibiotico sia a largo spettro e molto spesso nel paese dove andiamo probabilmente non avremo modo di acquistarlo in farmacia, sia per una difficoltà nei nomi commerciali che saranno diversi dai nostri, sia per la necessità di una prescrizione medica. E anche disinfettanti intestinali, perché un'altra patologia esatto, molto frequente. Esatto, vorrei chiudere in bellezza questa puntata, la celebre diarrea del viaggiatore che non manca mai. Ecco, Irene che stamattina mi sta guardando come dire: ma che stai dicendo? Ma perché non ci è mai capitata, Irene? Alto, ma è molto frequente. Infatti, infatti. E non è un'aspettativa, diciamo, gratificante per chi viaggia. Per chi viaggia e per tutti i compagni. Per questa che cosa ci portiamo, dottoressa, che stiamo chiudendo? Allora, un disinfettante intestinale, eventualmente un antidiarroico e una serie, anche in questo caso, di precauzioni alimentari per prevenire il disturbo, tra cui non consumare alimenti crudi, non consumare mai pesce o frutti di mare che non siano ben cotti o comunque di ignota provenienza, e a chiudere una precauzione sull'acqua, l'acqua soltanto acqua imbottigliata e mai quella della rete idrica, anche laddove fosse considerata potabile. Benissimo, per tutte le cose che non abbiamo detto, io ricordo che dal sito Movimento Difesa del Cittadino possiamo scaricare gratuitamente il dossier Viaggiare in Salute a cura dell'Osservatorio Farmaci e Salute di questa associazione dei consumatori. Dottoressa Lo Iacono, buone vacanze naturalmente, a presto. Grazie altrettanto a lei. Grazie molto. A presto, a quando, Deborah Rosciani? A parte io ritorno, ritorno il 31 agosto, quindi vi saluto tutti. E soldi e dintorni? Soldi e dintorni te ne occupi tu con una veste diversa fino per tutto il mese. Quindi grazie. Ti lascio questa, non è una patata bollente, dai, te la lascio molto volentieri. Grazie mille, scomparirà dunque nella veste in cui lo conosciamo naturalmente. Soldi e dintorni, ma ce l'ascolteremo in registrata. Cioè, io ho già avuto delle richieste da parte dei tuoi fedelissimi. Grazie male. Mille grazie. E naturalmente buone vacanze, buon viaggio. Grazie Irene e buon lavoro, a presto. 32 minuti dopo le 8 e questa mattina, venerdì 31 luglio, si conclude la settimana e il mese in primo piano, un'inchiesta su appalti e partiti. A Bari i carabinieri sono nelle sedi di 5 partiti del centro-sinistra, PD Socialisti, Rifondazione Sinistra e Libertà e Lista Emiliano. Sono stati anche acquisiti i bilanci, dunque una grandissima bufera, finanziamenti in cambio di appalti, queste le accuse fino a questo punto. Arrivano i soldi al sud, via libera a grandi infrastrutture e ritorna anche la cassa per il mezzogiorno. Sempre grande risalto nelle notizie anche all'ETA, che ha colpito anche a Maiorca, dove una bomba ha ucciso due poliziotti, e la questione dei tre decoder. Ha preso la parola anche il presidente della commissione di vigilanza Sergio Zavoli, che ha espresso il suo malessere: io alla fine vedo Sky e chiudo. E poi ha chiesto: ma cos'è? È un favore a Mediaset? Dov'è la convenienza o l'affare della RAI? È una televisione che si vede sul gruppo, sul decoder di Sky, e senza dubbio Al Jazeera. Questo c'entra per inciso con la tematica che stiamo per affrontare: la scomparsa di un conflitto completamente dall'informazione. Stiamo parlando di quello iracheno e per discuterne abbiamo scomodato Saad Hussein, un iracheno corrispondente da Roma per The New Era Newspaper, per Sky News e per la BBC. Buongiorno Saad, benvenuto in studio. Buongiorno. Ornella San Giovanni, caporedattrice di Osservatorio Iraq, le notizie sul Medio Oriente che non fa notizie, un portale edito da Un Ponte Per. Buongiorno e grazie Ornella San Giovanni. Buongiorno a voi. E un grazie di cuore anche per il fuso orario che non l'agevola certo a Barbara Serra, che è a Londra, conduttrice di Al Jazeera English, come viene definito il suo canale. Benvenuta Barbara. Grazie mille, buongiorno. E è scomparso un po' dall'informazione italiana e statunitense soprattutto, ma in Inghilterra ci interessava sapere. In questi giorni gli occhi sono puntati soprattutto sul ritiro, sul ritorno a casa delle truppe Yankees, cioè degli Stati Uniti, degli americani. Per i nasi degli iracheni cominciano ad avere un cattivo odore, si è espresso proprio così il colonnello Rees in un memorandum ufficiale sulla questione irachena. A che punto è invece il ritiro delle truppe britanniche? Oggi è proprio l'ultimo giorno del mandato delle truppe britanniche in Iraq e in effetti sono tutte fuori. Penso che l'Inghilterra al culmine aveva 46.000 truppe nel paese. Invece ora non solo questo doveva marcare insomma la fine di una presenza militare in Iraq, ma anche quello che è successo negli ultimi giorni è che certe truppe britanniche dovevano rimanere per allenare anche le truppe, addestrare le truppe irachene, anche proteggere il petrolio. Invece quello che è successo, per una questione del Parlamento iracheno che dice che non ha rinnovato il mandato per ragioni, perché insomma avevano altro da fare con le elezioni nel nord dell'Iraq, invece non è stato rinnovato questo mandato, perciò ora quello che è successo è che tutte le truppe sono fuori, anche quelle che magari dovevano rimanere ancora per un po'. La cosa interessante, devo dire, qui è che ho appena guardato i giornali di oggi qui in Inghilterra e non è su nessuna delle prime pagine. Il Guardian è una cosa molto piccola su 5 ostaggi britannici che erano in Iraq, ma non si parla più tanto insomma delle truppe. Si è parlato moltissimo qui ultimamente della guerra in Afghanistan. Queste due guerre sono sempre state un po' collegate, perché l'Inghilterra e il Regno Unito hanno sofferto molti, molti morti nelle ultime settimane. Però dell'Iraq si continua a parlare, ma sicuramente qualsiasi appetito che il pubblico inglese aveva per una guerra è finito e si vuole vedere una fine completa dall'Iraq. E allora c'è chi dice è dovuto appunto semplicemente, come tu hai detto, alla stanchezza del pubblico, non se ne vuole sentire parlare, c'è una voglia di rimozione. Pensi che siano queste le uniche ragioni, Barbara Serra? Devo dire la verità, in Inghilterra è molto interessante vedere le due guerre, che per me sono collegate nella mente di molte persone, Afghanistan e Iraq. Ci sono problemi anche con l'Afghanistan da parte del Regno Unito e dei britannici, ma l'Iraq era sempre stato più controverso, mentre invece il pubblico britannico, non tutti erano d'accordo ovviamente con l'Afghanistan, ma si capiva perché si sia andato in guerra. E nel Regno Unito, quando si è parlato della guerra dell'Iraq, sin dall'inizio c'è sempre stato più antagonismo verso questa guerra. È sempre stata una decisione molto controversa, che per molta gente dice che per Tony Blair è stata la sua decisione peggiore, che alla fine segnerà la sua carriera. Perciò devo dire che anche quello, nell'Afghanistan c'è fatica di tutte e due le guerre, ma mentre in Afghanistan gli britannici dicono beh sì, ora vogliamo uscire, però capiamo perché ci eravamo stati, invece con l'Iraq c'è sempre stato meno comprensione delle ragioni. Aveva un vizio d'origine, anche se stando agli ultimi sondaggi pubblicati sull'informazione, come risultato dell'informazione sembra addirittura che negli Stati Uniti il 38% della popolazione sia ancora oggi convinto che gli americani, gli inglesi, l'as anglosassone abbia trovato in Iraq le armi di distruzione di massa. E quindi, anche se l'informazione fosse stata seguita, è stata seguita in un certo modo, poi c'è stata una campagna martellante in alcuni paesi, penso al Nord America, pro guerra, anche se in quel caso per esempio il Canada si dissociò. Ed è vero, c'era questo approccio diverso tra il conflitto in Iraq e il conflitto in Afghanistan. Condividi questa osservazione? Lo chiedo a Saad Hussin, il corrispondente da Roma anche per la BBC. Per me il Sir John Shelcott, il capo della commissione attualmente in Inghilterra per la storia dei soldati inglesi in Iraq, e mettono a riflettere sulla storia della presenza inglese in Iraq. Noi sappiamo storicamente gli inglesi conoscono molto bene l'Iraq prima degli americani, ma purtroppo non viene tutto chiaro là, questa presenza. Perciò c'è un cambiamento del DNA del Parlamento iracheno verso i paesi che hanno occupato l'Iraq, come l'Inghilterra, come l'America. Perciò è quella commissione che sarà del John Shelcott e mette un atto nuovo sulla situazione dei soldati inglesi in Iraq. Questa che penso sarà una cosa molto interessante, molto importante. Poi c'è un'altra cosa, il motivo per la presenza della guerra in Iraq è stato motivi non è serio, poi vengono fondati quella del legame tra Saddam Hussein, Bin Laden o di l'Iraq possesso di armi particolari come quelle chimiche, come dicono loro, o di altri tipi di bombe. La realtà, questa è stata una scusa. Adesso gli iracheni hanno capito la situazione e sta cambiando anche a punto di vista i partiti. Perciò la prossima... Sadusin, hai sentito come anche gli americani si rendano conto di non essere esattamente i benvenuti ora, nonostante ci abbiano riempito di informazione martellante in cui dicevano che la popolazione irachena invocava la loro presenza. Ora invece perfino i vertici militari dicono: per i nasi degli iracheni noi abbiamo un cattivo odore. E questa accelerazione, perché potrebbe essere accelerato il ritiro degli Stati Uniti, come viene vissuto dalla popolazione irachena? Ma soprattutto la popolazione irachena non accetta l'occupazione, questo è fondamentale, perché un'occupazione, poi hanno fatto errori veramente, sì, sarà fra qualche anno escerà questa cosa. E questa non è la preoccupazione del popolo iracheno, ma adesso è la preoccupazione proprio dei partiti che comandano il paese. E prima chiamavano forze alleate, eccetera, eccetera. Adesso chiamano forze occupate. Forza occupata. Grazie a Sadusid, l'avete sentito, il corrispondente anche per la BBC da Roma. C'è qualcuno che da Roma svolge un compito meritorio, è la caporedattrice di Osservatorio Iraq, le notizie sul Mediterraneo che non fanno notizia. Si chiama Ornella San Giovanni e rivolgo a lei la stessa domanda: perché questo conflitto è completamente scomparso? C'è qualcuno che ovviamente ha osservato: con il ritiro, diciamo così, delle truppe italiane sono terminati, si è chiusa una pagina, sono finiti gli interessi e le attività degli italiani in Iraq. È vero, Ornella San Giovanni? Beh, non è vero evidentemente, cioè intanto noi siamo purtroppo un paese dove l'attenzione dei media verso gli affari esteri, diciamo, è piuttosto scarsa, e su questo si impianta il fatto che effettivamente una volta partito, andato via il nostro contingente, ritirato appunto dal governo Prodi, allora il governo Prodi viene considerato che non ci sono più interessi italiani in Iraq, cosa che non è vera, e che lì la guerra, il conflitto è finito, cosa che è meno vera ancora. Cioè non è vero che non ci sono interessi italiani, perché l'Italia continua per esempio ad avere la guida di una squadra provinciale di ricostruzione giù in Siria. Il PRT di Nasseria è a guida italiana, ci sono dei civili italiani che stanno lavorando lì, diciamo, dei quali non si parla. Ci sono gli interessi economici delle imprese italiane, ci sono imprese italiane che costruiranno il nuovo porto di FAO all'estremo sud del paese, che è un grossissimo progetto anche quanto, diciamo, a impegno finanziario, e proprio l'altro giorno l'ambasciatore Melani ha incontrato il vice premier iracheno accompagnato da una delegazione di imprenditori per discuterne. Ci sono progetti di imprese italiane invitate a lavorare nel campo dell'elettricità, quindi già questo, diciamo, di per sé dimostra che la presenza italiana esiste. E poi non è vero che il conflitto è finito, c'è un conflitto pericolosissimo che si sta delineando all'orizzonte in Iraq, che è quello fra arabi e curdi nel nord, per i territori contesi che incidentalmente sono anche territori abbastanza ricchi di petrolio. Tutti temono, a cominciare dagli americani, che possa scoppiare una guerra civile molto più sanguinosa di quella che c'è stata fra sunniti e sciiti, e che adesso è in fase, diciamo, di remissione. E quindi lì le cose, cioè è vero che si è chiusa una fase, però è vero, è tutt'altro che terminata. Barbara Serra, la presenza di corrispondenti un po' in tutto il mondo, delle grandi testate o di testate straniere, si sta riducendo anche per questioni di costi logistici, di protezione, poi aumentano ancora di più i costi delle assicurazioni in situazioni come queste. Per esempio Al Jazeera International, per la quale tu lavori e conduci, da dove trasmette per quel che riguarda l'Iraq? Noi abbiamo, interessante, prima sentevo la signora Ornella San Giovanni, noi abbiamo una corrispondente, Hoda Abdelhamid, che più o meno è sempre in Iraq, o cerca di esserlo, e proprio ora e negli ultimi giorni ha fatto le dirette da Irbil, perciò ne abbiamo seguito le elezioni nella zona curda, e noi stiamo seguendo anche molto quello di cui parlava la signora San Giovanni, e cioè queste tensioni ora fra gli arabi e i curdi, perciò stiamo vedendo, insomma, potrebbero essere le radici di un'altra guerra civile in Iraq. C'è anche da guardare tutte le altre morti che stanno succedendo in Iraq da quando gli americani hanno un po' lasciato il controllo delle città all'esercito iracheno, cosa che l'esercito iracheno vuole, che la gente in Iraq vuole, che però insomma ovviamente ancora è molto difficile. Perciò noi abbiamo corrispondenti lì, però sai, non è solo una questione di avere corrispondenti, molto spesso è molto difficile avere gente in Iraq, ma è anche dedicare il tempo per avere le notizie e parlarne in dettaglio. Noi ovviamente da Al Jazeera lo facciamo perché mi sembra ovvio, siamo un canale arabo, perciò parliamo di quella zona, però credo che sia una cosa molto importante per tutti i TG, anche in Italia, anche se l'Italia non ha più gente in Iraq, di parlare di queste, delle complessità di queste guerre e di questi paesi che insomma non si possono, non se ne può parlare in maniera superficiale. Ornella San Giovanni, dunque forse anche la complessità di certe dinamiche può essere un deterrente alla copertura capillare di questo conflitto? Lo è di sicuro, perché oggi parlare di Iraq, andando al di là dell'autobomba, dell'attentato che purtroppo sono ancora quotidiani anche in zone del paese di cui si parla meno, però richiede effettivamente non solo la presenza o la non presenza, come diceva giustamente la signora Serra, sul posto, ma la conoscenza e la capacità di non solo capire e di restituire in forma comprensibile al pubblico, cioè in modo che la gente possa capire di che cosa si tratta, diciamo, quelle che sono delle dinamiche interne a questo punto, con una presenza e un'influenza anche politica degli americani che ormai va riducendosi di giorno in giorno. Perché l'informazione comunque circola, comunque c'è, ne è la prova anche un organo di informazione come il suo, come questo Osservatorio Iraq, e ci tengo a sottolinearlo naturalmente, è non profit. E lei, Ornella San Giovanni, parla quattro lingue, parla anche l'arabo, dunque ha accesso a tutta una serie di fonti e mi conferma che ci sono delle fonti sul campo, degli stringers, delle agenzie che comunque possono fornire informazioni. Diciamo certamente che il lavoro è più complesso, perché è vero che l'informazione ce n'è di meno, bisogna scandagliare di più, bisogna cercare, certamente diciamo non è una cosa che si confà a un certo tipo di atteggiamento che io definisco pigrizia giornalistica, oppure comunque l'essere schiavi di determinati tempi o di determinate mode anche che fanno sì che si parli un giorno di una cosa e un giorno di un'altra. È sicuramente un lavoro più faticoso. Grazie a Ornella San Giovanni, grazie a Barbara Serra da Londra, conduttrice di Al Jazeera English, grazie a Saad Hussein e a voi che ci avete seguito. Concludo con un'immagine bellissima, non ha nulla a che fare col conflitto in Iraq, ma è su Al Jazeera, queste migliaia di bambini palestinesi nella striscia di Gaza, un altro di quegli eventi con i quali per un certo periodo si è bombardata l'opinione pubblica e poi è scomparso, questi migliaia di bambini palestinesi che partecipano su una spiaggia nel nord della striscia di Gaza a una gara di aquiloni. Ancora Irene Zerbini al microfono, ho 50 minuti trascorsi dopo le 8 e vogliamo concludere questo viaggio facendo tappa a Campiglio, così quasi per sbaglio, e in realtà facendo tappa in una delle paure chissà più profonde degli esseri umani. C'è un seno in particolare che in Italia fa paura, un paese pieno di topless, pieno di bellezze sventolate al vento, utilizzate anche per vendere i prodotti, che però fa paura quando svolge una funzione molto naturale, cioè l'allattamento. E ci racconta e ci analizza questa paura in maniera molto sottile e intelligente una docente di storia contemporanea dell'Università di Roma, dell'Università La Sapienza, naturalmente membro del Comitato Nazionale di Bioetica, che abbiamo scomodato. Allora, benvenuta in trasmissione a Lucetta Scarrafia. Buongiorno. Buongiorno. Siamo partiti dall'episodio di una donna che allattava a pranzo ed è stata invitata dai gestori dell'hotel Madonna di Campiglio a non farlo più, insomma, no? Quasi fosse stata sorpresa compiere una... Diciamo in una stanza separata, diciamo, certo, come fosse una cosa che non si poteva vedere. Si può fare, ma non si deve vedere, chiaro. Ecco, e questa signora, che è un medico cardiologo, e si trovava con il marito in vacanza e con la bambina grande, cioè quella di 2 anni e mezzo, e con la piccola di 5 mesi, non si è limitata ad avere così un contenzioso personale con l'albergo, ha deciso, come segno di civiltà, di scrivere ai giornali e poi di sottrarsi dai dibattiti. Anche questo indica, diciamo così, la sua buona fede. Sì, senz'altro. Ma la mia idea è che questo, il padrone dell'albergo, che è quello l'albergatore, che è quello che l'ha pregata di allontanarsi, pare di sua iniziativa, pensando che potesse turbare i clienti, sia stato sorpreso, perché era tantissimo tempo che non vedeva una donna allattare, e davanti alla sorpresa ha, diciamo, confuso la sorpresa col disagio. Ha detto: ma se io sono sorpreso, chissà cosa penseranno i clienti. E non ha riflettuto sul fatto che ormai il seno... Pronto? Stiamo seguendola e ascoltandola con molto interesse. Sarebbe interessante anche se... ormai è una specie, un pezzo del corpo femminile che viene esposto continuamente, non solo nei topless in spiaggia, ma pensi anche alla pubblicità. Quante pubblicità vediamo in televisione, nei film. Cioè, ormai è una specie di luogo nella comune. Vita politica. 349-238-6666 per le vostre opinioni anche su questo tema. Scarrafia, tra l'altro, è finita in Parlamento questa vicenda. Ma perché... non lo sapevo questo. E questo fa... non lo sapevo, perché è finito in un trafiletto molto confinato, molto in basso. Invece doveva suscitare forse un dibattito. Comunque va detto che Eugenia Roccella, sottosegretaria al welfare, ha dichiarato che da tempo il Ministero lavora per promuovere l'allattamento in accordo con le raccomandazioni di agenzie internazionali come l'UNICEF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e dunque non è possibile che gli esercizi pubblici italiani, alberghi, ristoranti e bar, non solo non incoraggino, ma addirittura impediscano a una mamma di allattare. E anche l'onorevole Giacomo Stucchi della Lega ha interrogato il governo per sapere come evitare che si ripeta. Come evitare che si ripeta? Ma io penso che ci debba essere una specie di cambiamento culturale, non solo per l'indignazione di questo caso, che è chiaramente al limite, perché poi, come sa, c'è stato sul Corriere della Sera online un sondaggio in cui risultava, mi sembra l'ultima volta che l'ho visto, che il 65% delle persone che scrivevano era favorevole che la mamma rimanesse nella sala, quindi non, se vuoi erano tanti, 25% che volevano che andasse via, però era una cosa, è una cosa limite, ma direi che forse deve essere fatto di nuovo una sensibilizzazione su questo tema, soprattutto sull'allattamento al seno, perché molte donne, anche se fanno un figlio, poi pensano che l'allattamento al seno è troppo, o almeno lo riducono moltissimo a pochi mesi, perché pensano che è un sacrificio, perché effettivamente lega il bambino, cioè non c'è libertà del bambino che per pochissime ore. E credo che a volte non sia soltanto una convinzione della madre, ma sia anche una pressione culturale, per cui i tempi del lavoro, i tempi della vita, i tempi del rientro sul posto di lavoro fanno prendere sotto gamba. In Italia non tanto, perché in Italia le mamme hanno 3 mesi sempre dopo la nascita del bambino, quindi almeno 3 mesi potrebbero allattare. 3 mesi non è tanto allattare, uno può allattare anche di più notoriamente, 6 mesi. Però 3 mesi come minimo potrebbe allattare, però in quei 3 mesi effettivamente una donna è schiava del suo bambino, per essere proprio in un mondo in cui l'individuo deve essere libero, che la libertà individuale viene considerata il valore massimo, in quel momento una donna invece è schiava del suo figlio. Voglio farle sentire e far sentire a tutti cosa è successo a Vancouver, quando in un negozio di una grande catena molto famosa, presente anche in Italia, è stato invitata una madre ad andare in un camerino ad allattare. Questa donna stava allattando. Il giorno dopo il negozio si è trovato 200 madri che, con seno scoperto, si sono messe ad allattare in pubblico come segno di protesta per questo atteggiamento considerato chiuso. Infatti poi la catena di negozi ha immediatamente fatto retromarcia e chiesto scusa. Ma sentiamo cosa racconta la diretta protagonista che ha causato questa sorta di scandalo, la madre in questione e il servizio delle TV di Vancouver. Continuavano a ripetermi che quelle erano le regole del loro negozio. Altre donne hanno raccontato di avere avuto esperienze analoghe, come questa donna a cui una hostess ha chiesto di coprirsi con una coperta mentre allattava. Io le ho detto no grazie e lei ha ripetuto la richiesta. Mi ha dato molto fastidio e ho ripetuto no grazie, ma lei è tornata da me con una coperta comunque. Le manifestanti sostengono che il messaggio fa proprio fatica a passare. Se noi dobbiamo stare sedute in un ristorante a guardare gli altri mangiare, perché tu non puoi guardare mio figlio mangiare? Il grande magazzino si è scusato, è stato un equivoco, un disguido. In quello che può essere descritto come un incubo nelle pubbliche relazioni, i titolari hanno promesso che non succederà mai più. Lo spaccato da un'altra realtà a un altro paese, grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a questo punto, grazie a Lucetta Scarafia, docente di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, e ritorneremo alle 7:15 di lunedì, dunque 15 minuti prima, e lunedì per 24 mattino. Da Irene Zerbini l'augurio di un radioso fine settimana.